Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Giovedì 29 dicembre del 2016, questa è Visionari, il cinema su queste frequenze, il giovedì dalle 14 alle 15, anche quest'oggi subito dopo il giornale radio, quindi almeno per un'ora e mezza, perché è una puntata speciale, la prima di due puntate dedicate come ogni anno alle cinquine, i cinque film preferiti da amici e colleghi che sentiremo telefonicamente in diretta una decina di minuti l'uno, che ci diranno appunto i loro cinque film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2016. Per quanto riguarda la scaletta e le notizie sulla trasmissione, potete consultare il sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Come primo ospite di quest'oggi c'è Giona Nazzaro. Avrei dovuto sentire Anna Maria Pasetti, che però mi chiedeva se possiamo slittare al 5 con lei, perché oggi non ce la faceva proprio. Quindi tu sei il primo, Giona. Ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, un saluto a tutte le compagne e compagni in ascolto. Allora, Giona, ti presento come delegato generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia, anche se non sei solo questo. Per il momento sono questa è la qualifica, poi come tutti quanti noi siamo molte cose. Siamo molte cose, multitasking. Allora, Giona, ti chiedo intanto subito una tua valutazione del 2016 cinematografico. Io a differenza delle persone che non fanno altro che lamentarsi, elevare giaculatorie funeste al cielo, lamentando chissà quale tragedie, a me sembra che bene o male, al di là di quello che accade nel circuito della distribuzione ufficiale, anche il 2016 si sia presentato con un sacco di bei film. Ovvio, non tutti sono arrivati nei cinema italiani, anzi direi la maggior parte di questi non è arrivata nei cinema italiani. Da noi si è continuato a discutere più o meno delle solite cose. Però, per esempio, per quanto riguarda il cinema italiano che non si vede, indipendente, che fortunatamente però si riesce a vedere nei festival italiani, ma soprattutto nei festival non italiani, mi sembra che ci sia una straordinaria vivacità, cosa che riguarda per esempio soprattutto il documentario. Penso per esempio al lavoro eccellente che svolge una scuola di cinema come la scuola di cinema Zelig di Bolzano. Sì. Sono cose che ovviamente di cui non si parla nei talk show, non si parla sui giornali a grande tiratura, però sono realtà che esistono. E bisognerebbe, se mi permetti, ogni tanto tentare di ragionare anche in prospettiva. Quando certo. Gianfranco Rosi vince a Venezia il premio Orizzonti con Below Sea Level, sembrava che fosse una di quelle cose passeggere, quasi una trovata. Oggi Rosi è uno dei, giustamente dico, uno dei protagonisti del nostro cinema, uno dei protagonisti di questa rinascita del cinema documentario italiano. Quindi adattando questo schema di pensiero a quel che accade oggi nel cinema italiano, sono estremamente fiducioso, e anche le cose viste quest'anno fanno ben sperare in tal senso. Certo, se poi ragioniamo sempre solo in relazione al fatto che cinepanettoni sì, cinepanettoni no, commedia sì, commedia no, allora chiaro, cambia l'ottica, anche quest'anno sarebbe un anno catastrofico. Però lo sforzo che si dovrebbe tentare di fare ogni tanto è quello di pensare al di là degli schemi abituali di ragionamento. Passiamo alle tue preferenze? Passiamo alle mie preferenze, che quest'anno sono come dire, preferenze un po' tendenziose, dettate dettate da questo grande amore e grande fiducia che ho nei confronti del cinema italiano, degli autori, perché poi alla fine quel che conta è che si continui a fare cinema in Italia e che si possa continuare a dialogare con gli autori che lo fanno. Quindi mi sembrava giusto incoraggiare gli autori che oggi fanno cinema in Italia, perché mi sembra anche una scelta politica. Sì. Procediamo. Allora, procedo dicendo che in questa lista ovviamente non compaiono moltissimi film che ho amato. Cito così a tradimento e a caso Tarantino, Miguel Gomez, Uzi Haussien, Michael Bay, Doctor Strange, che non è un regista ma un film, e cose di questo tipo, proprio perché non perché non li abbia visti, non li abbia capiti, non li abbia amati, ma perché mi sembrava importante fornire delle indicazioni di tendenza. Quindi al quinto posto quest'anno io metto Z di Cosimo Alemà, il film incentrato sul hip hop italiano, che a mio avviso non è stato compreso per quel che valeva e per quel che vale. Intanto a Cosimo Alemà faccio ancora una volta i più forti e sentiti complimenti per lo sguardo che è riuscito a posare sulla realtà delle periferie romane. Se si vuol capire come si sono trasformate le periferie italiane e romane in particolare, allora bisogna guardare con un po' più di umiltà e un po' più di attenzione un film come Z. Luoghi come Corviale, Piazza Vittorio sono stati colti con una straordinaria precisione, luoghi dove, dalla quale in qualche modo è scomparsa la centralità europea, la centralità operaia, e dove si fanno, forma un nuovo sostrato sociale, delle nuove figure, e tutto questo calato in un racconto di formazione estremamente fruibile e attento. E oltretutto Zeta nel film Cosimo Alemà in Zeta affronta anche con grande precisione la perdita di centralità del lavoro stesso, e quindi mette in scena ciò che resta di soggetti lavoratori tradizionalmente intesi, proiettandoli sullo sfondo di una sempre maggiore destrutturazione del tessuto sociale. Tutto questo in un racconto comprensibile sia dagli adolescenti meno politicizzati sia dagli adulti, e trovo questa leggerezza nell'approcciare questioni così complesse che ci riguardano tutti da vicinissimo, come ben sappiamo, all'interno di un film quasi di genere, quasi un film musicherello di quelli che si facevano negli anni 50, però con la consapevolezza di quello che è accaduto nell'hip hop statunitense, non solo, negli ultimi 20 anni a questa parte, lo trovo una straordinaria intuizione. Quindi per me Zeta è una delle più grandi sorprese del cinema italiano di quest'anno. Ok. Poi. Poi avanziamo e troviamo un documentario, Spira Mirabilis, di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, ossia come raccontare il mondo, la vita, senza cedere a tentazioni New Age, dando corpo a un cinema schiettamente materialista, politico e filosofico, e allo stesso tempo costruendo una vera e propria sinfonia visiva per immagini, associazioni, quasi allitterazioni di montaggio e altro. Massimo e Martina hanno realizzato nel corso della loro diciamo breve ma già ricchissima carriera film importantissimi come Il Castello sull'aeroporto di Malpensa o Materia Oscura dedicato al poligono di tiro del Salto di Quirra, una delle zone funestate dalla cultura militare del nostro paese. Sono dei cineasti estremamente politici e, a mio giudizio, tra i migliori di questa magnifica covata di documentaristi che abbiamo. Spira Mirabilis è, a mio modestissimo giudizio, il loro film più bello sinora. Mm-hmm. E siamo a due. In terza posizione troviamo un film che ho, scusate il personalizzare del ragionamento, che ho letteralmente adorato, ed è Fiore di Claudio Giovannesi. Anche Claudio proviene dal documentario, questo è il suo secondo film di finzione, e Claudio ha avuto il merito di trovare una magnifica attrice non protagonista per il suo film, ha avuto il merito di raccontare una storia di riscatto e di speranza senza cedere anche in questo caso a nessuna delle convenzioni banalmente sentimentali del nostro cinema adolescenziale. Ha aperto un fronte problematico che riguarda tutti i giovani sottoproletari, non ancora maggiorenni, che non hanno una definizione né lavorativa né politica, e che quindi formano questo sostrato di umanità che rimane sospesa, riuscendo allo stesso tempo a dirigere un film pur ancorato nella realtà estremamente lirico, potente, un vero e proprio inno alla disobbedienza. Credo che Fiore di Claudio Giovannesi sia uno dei film in assoluti più belli visti quest'anno, ma non solo in Italia, direi proprio nel mondo, e mi auguro che Claudio riesca in futuro a dirigere altri film di questo valore. Bene. Al quarto? In realtà stiamo andando in ordine inverso, saremo al secondo. Arriviamo al secondo. Allora. Al secondo, che è quasi un ex aequo, ecco, li dico in questo modo. Al secondo posto, che quasi è un ex aequo, che è un ex aequo con il primo posto, ci metto Fai Besogni di Marco Bellocchio, perché Marco Bellocchio è il nostro cineasta che, nonostante abbia una veneranda filmografia alle spalle, continua instancabilmente a mettersi alla prova, a sfidarsi, a tentare di andare al di là di quanto ha già fatto, e tra i grandi maestri del nostro cinema Marco Bellocchio è l'unico che continui a lavorare con questa straordinaria determinazione a mettersi costantemente in discussione. Fai bei sogni è un melodramma, è un film politico, è un dramma psicanalitico, è un racconto di formazione, è un'immersione nei fantasmi domestici e politici del nostro paese che è soltanto un regista del calibro di Marco Bellocchio poteva osare e tentare di portare a casa con risultati così straordinari. Che è in ex aequo con... Quasi in ex aequo. No, è in ex aequo con Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che per me è il film italiano dell'anno. E intanto, e vorrei evitare per una volta di dire ma non tanto per il soggetto, no, proprio per il soggetto che ha usato affrontare, perché quello che accade nel nostro Mediterraneo oggi, un Mediterraneo che una volta era un luogo d'incontro, adesso è diventato un'enorme bara, fossa comune a cielo aperto, andava raccontato, e andava raccontato in un modo che non fosse quello banalmente scandalistico e sensazionalista della TV generalista, andava raccontato in un modo che non fosse quello del filmatino da cellulare colto al volo nel farsi la tragedia, ma andava strutturato in un discorso che fosse squisitamente, intimamente cinematografico, perché solo in questo modo si può fare poi del cinema politico. Gianfranco Rosi è riuscito a creare intorno al Mediterraneo un vero e proprio ecosistema di quello che sta cambiando oggi nel mondo e in Europa. Il suo film è un capolavoro di quelli che segnano un'intera cinematografia e di quelli che segnano una percezione delle cose, e ritengo che Fuoco a mare sia un film del quale parleremo ancora per molti anni a venire. E la cosa non secondaria, la capacità di mettere sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo non è assolutamente da trascurare, e farlo con la precisione e la potenza filmica, la flagranza filmica di Gianfranco Rosi è un risultato, per quanto mi riguarda, di assoluto valore. Bene, allora, noto con interesse che hai segnalato tutti i film italiani, e questo, insomma, mi sembra un elemento molto importante. Giona, io ti ringrazio e ti abbraccio, e a questo punto un buon 2018 cinematografico. Un buon 2018, perché saltiamo subito il primo anno di Trump, che è il 2017, evidentemente. Estendo anch'io l'abbraccio a voi e alle compagne e compagni in ascolto di Radio Onda Rossa per un nuovo anno di lotta. Ci aspetta, ci tocca. Sì. Un abbraccio, a presto, Giona. Ciao. A presto, grazie. Ciao. Giona Nazzaro per le cinquine dei film preferiti tra quelli usciti in sala in questo 2016. Eccoci con Pedro Armocida, ci sei? Eccomi qua. Oh, ben ritrovato. Grazie. Allora, abbiamo appena sentito Giona Nazzaro, è la volta tua adesso, Pedro. Beh, non so se sarò alla stessa altezza. Non mi ricordo mai che devo fare, devo dirli in ordine. No, allora cominciamo con una tua valutazione su quest'annata, dai. Ma guarda, alla fine, quando c'è questo gioco di fare le classifiche che alcuni aborrono, però è un modo naturalmente per cercare di fare un bilancio di un anno, e poi alla fine si pensa sempre andrà male, però poi oggi ne parliamo di 5, per film TV ne ho scelti 10 e molti sono rimasti fuori, quindi la prima impressione è che ci sono parecchi film belli, praticamente poi come ogni anno, adesso è difficile dire un anno più, un anno meno, poi appunto i gusti sono molto personali, però appunto ci sono alcune perle, magari appunto in maniera soggettiva, di cui parleremo, e quindi direi che il bilancio, per quanto mi riguarda, è molto positivo anche quest'anno. Ok, e come vuoi possiamo anche già andare con i tuoi 5. Ok, facciamo senza, diciamo, classifica. Senza ordine, ok. Ok, ok, ok. Però bene, vorrei iniziare da un film che poi ci dà l'opportunità di parlare di tre film, in pratica, che è Le Mille e Una Notte e Arabian Night di Miguel Gomez. Sì. Un film, appunto, tre film che sono stati un colpo al cuore quando l'ho visti, perché non mi aspettavo poi questo tipo di narrazione. Il regista ci aveva già abituato nei suoi film precedenti, però mi è sembrato che questa volta anche questo tuo mettersi in gioco nel film, questo tuo essere presente anche come autore e interprete in qualche modo abbia dato qualcosa di più a questi tre film, che mi sono sembrati anche molto, ma molto contemporanei. Cioè, ho anche pensato che oggi come si può raccontare la crisi, i problemi di un paese, se non in questo modo, nel modo in cui fa Miguel Gomez. E quindi sono rimasto completamente rapito. Poi naturalmente ci sono anche degli elementi così appunto personali, anche l'utilizzo naturalmente della lingua portoghese, che è così musicale, con questa voce narrante che ti porta dentro mille storie in un crocevia poi di culture, di razze diverse, appunto successioni culturali veramente ampissime. Mm-hmm. Facendo questo, cioè anche attingendo appunto a miti arabi, a tutta una cultura altissima, il regista poi riesce a raccontare i problemi di oggi, del lavoro, delle fabbriche, del nostro paesaggio. Quindi ecco, l'ho trovato un film veramente eccezionale, per non parlare poi dal punto di vista visivo delle trovate appunto visive, dell'utilizzo in qualche modo del cosiddetto, no, cinema del reale, comunque di un aspetto anche documentaristico in qualche modo, sì, che c'è in questi tre film. Quindi in qualche modo adesso potrei dire che non abbiamo detto di fare la classifica, ma potrei dire che è comunque il mio film dell'anno. Sì. Ok. Io segno. Okay. Tu sei d'accordo? Io ne ho vista solo una delle tre parti. Ok. E niente, parlando poi di autori veri e propri, come il nostro portoghese, possiamo proseguire su questo versante con invece una voce che arriva dall'altra parte dell'oceano, il club di Pablo Larraín. Sì. Regista che appunto nelle varie classifiche ci giunge quasi in tre modi, perché adesso deve uscire ancora Jackie, però è una presenza costante in tutte le classifiche con il club e anche con Neruda. Io scelgo in qualche modo tra i due film, potrei anche mettere tutti e due, però il club, come lo dicono un po' gli spagnoli, il club, pronuncia, sì, è certamente un film molto interessante, perché è un po' un modo di vedere le cose che non ti aspetti. Cioè, toccare un argomento come può essere quello mostruoso della pedofilia nella chiesa cattolica, pedofilia, ma anche i sacerdoti rinchiusi in questa casa, diciamo, di cura sull'oceano, hanno anche altre problematiche oltre a quella della pedofilia. Però appunto toccare dei temi così forti in un modo, diciamo, che non è un classico naturalmente film di denuncia, ci arriva attraverso anche elementi poetici, ma fortemente legati alla quotidianità, fino appunto a personaggi strazianti come la persona abusata che va di fronte a questa casa a chiedere conto in qualche modo di quello che ha subito, con una litania che ti entra dentro, cioè devastante, quasi insostenibile, in un film che naturalmente non fa vedere assolutamente nulla di questa violenza da un punto di vista naturalistico, ma racconta con le parole, soprattutto con i volti. Questo film è fatto di inquadrature quasi fisse, di volti che dicono tutto, tra cui c'è l'attore Ciccio Pedro Castro di Pablo Larraín, che ancora una volta riesce appunto a dare un'interpretazione magistrale e a trasmettere tutte le problematiche del film. Sì. Quindi ecco, naturalmente anche Neruda, con un argomento in qualche modo completamente diverso, e questo mettere in scena un biopic completamente strampalato in qualche modo conferma, diciamo, il fascino, la grandezza di questo regista, che ha fatto ancora pochi film, ma uno più importante dell'altro. Sì. Poi vorrei inserire, visto che parlavo prima di aspetti documentaristici, un film che anche lì, diciamo, è un documentario, ma non lo è, no? Quindi Into the Inferno di Werner Herzog, un altro modo appunto di approcciarsi a un genere che sappiamo benissimo ormai esiste come genere in sé, un documentario, ma appunto diventa un film to court oramai, anche perché Herzog in questo senso è, diciamo, dei più grandi, quindi anche lì uno pensa di vedere un film sui vulcani, e poi la presenza anche proprio di Herzog stesso, come ci ha abituato, cambia completamente le carte in tavola, perché l'autore, che anche in questo caso si mette in scena nel suo peregrinare tra vulcani e cose, incontra poi la vita, incontra altre cose molto interessanti che praticamente non c'entrano nulla e diventano poi la cosa più interessante del film. Chi l'ha visto, naturalmente mi riferisco al passaggio nella Corea del Nord, in questa nazione per noi abbastanza misteriosa, volutamente misteriosa, perché loro vogliono rimanere tali, e quindi lui stesso si accorge che naturalmente quello che gli fanno vedere, quello che lui può filmare, è tutto preordinato, è tutto deciso da qualcun altro, però naturalmente nello svolgersi delle riprese poi si capiscono delle cose che il regime non vorrebbe far passare. Quindi anche questo diventa un film che sorprende per la sua capacità di non essere mai quello che uno si aspetta. Sì. Ed è quello che noi, cioè a me piace del cinema, quello che poi uno cerca di fare anche nel lavoro di critico, sperando di dire qualcosa che magari non si aspetta di leggere, un'interpretazione che non è così banale. Certo, non è facile, infatti appunto parliamo di un pugno di film e di Herzog, che oramai è una specie di mito. Devo dire che, pur essendo un mito, non ho molto amato l'altro, anche lui, parliamo di registi molto prolifici, appunto Gomez ha fatto 3 film in uno, Pablo Larraín 3 film praticamente in un anno e mezzo, e anche Herzog aveva fatto il documentario sul mondo della tecnologia su internet, che però non mi aveva molto, molto convinto. Quindi ecco, in questo caso tra i due scelgo assolutamente l'interno dell'esterno. Okay. Non c'è nei miei 5 film, però parlando di questa mondo liminale di film e documentari, cito solo che vedo che è poco considerato e mi dispiace Bella e Perduta di Pietro Marcello, però non l'ho messo neanch'io tra questi 5 film, però ecco, volevo giusto notare questa mancanza anche nelle classifiche di tutto il mondo. Una menzione. E mi dispiace, vabbè. E proprio parlando di italiani, un film italiano io lo inserisco e tra questi 5 e mi piace inserirne uno che è un'opera prima. Appunto ho parlato di Bella e Perduta, che per me è uno dei film dell'anno, però diamo spazio invece a chi sordisce. Il film è Antonia di Ferdinando Cito Fido Marino, il film prodotto da Luca Guadagnino su Antonia Pozzi, la poetessa milanese che aveva avuto anche era stata anche oggetto di un altro bel film, in questo caso più documentario naturalmente, di Marina Spada. E Ferdinando Cito Fido Marino si approccia anche qui al racconto della vita, scegliendo dei passaggi diciamo di temporali ben precisi di Antonia Pozzi, e lo fa in un modo che mi ha sorpreso, che mi ha trasportato in questo mondo che è poi molto personale di questa scrittrice. Quindi anche qui, se le definizioni per genere, appunto biopic o quant'altro, ritratto di un personaggio, viene scardinato in uno stile molto in qualche modo sontuoso, non voglio dire non lezioso, però molto ricco di riferimenti anche cinematografici, però semplice nel raccontare proprio i momenti che hanno influito nell'animo di questa poetessa e che poi le hanno consentito di scrivere le poesie che ha scritto. Quindi un film molto interessante, purtroppo anche questo diciamo dico anche questo rispetto un po' anche a Bella Perduta o altri film che mi piace citare di esordienti come Mediterraneo di Perpignano, hanno avuto pochissime circolazioni, sia appunto perché non sono stati scelti in festival anche italiani. Antonia andò a Carlo Vivari l'anno scorso, 2015, e purtroppo appunto rimangono così delle perle un po' nascoste. A quanti siamo arrivati? Che mi manca? No, mi sa che li hai detti tutti, perché Mille e una notte, Arabian Night e Il Club, Neruda, Dentro l'inferno e Antonia, quindi siamo a 5 con una però menzione. Neruda era, diciamo, sceglievo Il Club invece di Neruda. Ah, in alternativa. Questo è Carol di Todd Haynes. Ok, Carol. Te lo dico secco così magari ne avete già parlato. No, ancora no. Vabbè, un film straordinario anche questo nella sua rimessa in scena anche di un'epoca e di un modo di raccontare le storie del passato, che però non per l'argomento diciamo dell'omosessualità, ma proprio per uno spirito contemporaneo che ha anche nel rifare sembrerebbe generi del passato, riesce a trasmettere secondo me delle emozioni grandissime che sarebbe difficile ottenere in un altro modo. Quindi lui si sta tra virgolette un po' specializzando in questo modo di rimettere in scena secondo genere, canoni e stilemi del passato, riuscendo però a intercettare sentimenti che sono sempre attuali, sempre quotidiani, sempre ostacolati peraltro. Benissimo. Allora Pedro, io segno anche questa menzione per Bella e Perduta, perché ogni tanto le menzioni non lasciamo la Perduta, ma no, che sia presente. Io t'abbraccio e ci risentiamo. Grazie. Prossimamente. Grazie tante. Ciao, alla prossima. Ciao. Questo Pedro Armosida per quanto riguarda e le cinquine, i cinque film preferiti tra quelli usciti in sala, e andiamo avanti con i nostri ospiti. Questo è Visionari, uno speciale, una puntata speciale, come siamo soliti fare negli ultimi anni, due puntate dedicate alle cinquine, i cinque film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2016 da amici e colleghi critici cinematografici. Federico Pedroni, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, benvenuto in questa prima di due puntate dedicate alle cinquine, come siamo soliti fare ogni fine anno. Ti dico subito che tu ci scrivevamo ieri a proposito delle tue scelte e mi citavi Carol, che è stata proprio citata tra i cinque da Pedro Armocida adesso, quindi vedi, io e Pedro Armocida ci capiamo, sì, no, nel senso che questo è classificone che ci divertiamo tutti a fare terribilmente sui social, per radio, poi chi fa finta di non farle poi se le fa dentro la testa, se le scrive sui foglietti, insomma è uno dei giochetti che chiaramente ci divertiamo tutti a fare, noi che vediamo film per mestieri, quindi insomma ne vediamo tanti durante l'anno, alla fine viene quasi naturale tracciare un pochino identichi dell'anno appena passato. Diventa un po' strano perché chiaramente vedendo film, magari qualcuno ai festival, qualcuno in maniera non del tutto proprio legale, qualcuno di nascosto, qualcuno così, è sempre difficile poi calendarizzare di quando sono i film. Ad esempio Carol, che è forse il film tra quelli usciti nel 2016 in sala in Italia, è forse il film che io ho amato di più in assoluto, è un film che era a Cannes dell'anno scorso e che è uscito proprio all'inizio dell'anno, il primo weekend di quest'anno, quindi sembra un film in realtà lontanissimo, però insomma qualche limite bisogna pur darlo, quindi diciamo che è ufficialmente un film uscito in Italia nel 16 e che quindi rientra diciamo tra gli eleggibili di questo gioco che stiamo facendo. E quindi già è primo con due preferenze. Sì, va bene, comunque Carol è un film magnifico, non mi sembra di ricordare, non so se ho le allucinazioni appunto, che ci siamo sentiti l'anno scorso proprio in chiusura di anno e io avevo detto che praticamente il mio film preferito dell'anno scorso era un film che sarebbe uscito nei primi giorni di quest'anno qui e che era Carol, quindi chiudiamo e apriamo diciamo il discorso non parlando dello stesso film, che appunto che era un circuito spazio-temporale abbastanza curioso. Comunque quello è forse il film dell'anno che io ho amato in maniera più viscerale, cioè da un anno e mezzo ormai. Sì. Infatti ti ha occupato due anni questo film. Esatto, praticamente uno slot infinito. E poi Fede? Guarda, io stavo facendo un po' appunto il punto della situazione, un film invece che io ho amato follemente che in Italia è quasi passato in sordina per una distribuzione difficile, perché è un film che sembra venuto da un'altra epoca più che da un altro pianeta, e Tutti vogliono qualcosa, Everybody Wants Some, che è il film di Linklater che è uscito quest'estate in Italia. Linklater veniva da un trionfo di critica, di Oscar, di entrata ufficiale nel mondo che gira con Boyhood, che era un film che è stato molto amato e che io ho apprezzato senza amarlo invece più di tanto, e quest'anno invece ha tirato fuori un film che secondo me è un film veramente illuminato da una grazia quasi irripetibile, è una specie di college movie come si facevano una volta, un film di ragazzi che vanno al college, che giocano in una squadra di baseball, che pensano allo sport, al sole, alle ragazze, un film apparentemente di una leggerezza quasi eterea e che poi invece nasconde, come sempre in Linklater, come era anche in Boyhood, come in quasi tutti i film di Linklater, una struggente malinconia sul tempo che passa. Solo che come Boyhood era un film molto pensato, molto costruito, molto diciamo chiaramente d'autore, questo è un film che porta le stesse tematiche facendo invece il verso appunto a certe commedie anche un po' scollacciate americane degli anni Ottanta, ed è un film che però riflette sugli anni Ottanta in una maniera secondo me straordinaria, un film che secondo me che con il tempo qualcuno riguarderà e che a cui darà il peso che si merita, ecco. Bene. E siamo a due. Andiamo avanti. Beh, questo è stato un anno in cui in Italia sono usciti due film di Pedro Larraín e un terzo è stato presentato a Venezia, quindi sono usciti in grandissimo ritardo Il Club, che era a Berlino dell'anno precedente. È uscito Neruda, che era a Cannes, e uscirà a breve Jackie, che era a Venezia. Larraín è secondo me uno dei grandi autori del cinema mondiale contemporaneo, e lui lo sa pure, secondo me, quindi, insomma, comincia a suscitare qualche antipatia che va al di là della qualità, secondo me, proprio indiscutibile dell'autore. Poi è un autore a cui sono molto legato, perché diciamo che la prima volta che arrivò in Italia e fece un po' di clamore fu con Tony Manero, che passò in Italia per la prima volta a Torino, quindi è un regista anche, diciamo, a cui sono personalmente legato come ricordi. E diciamo, di questi tre film io penso che alla fine il più affascinante, il più complesso, il più stratificato e quello che mi è rimasto a distanza più nel cuore è proprio Neruda. E quindi diciamo nella tripletta di Larraín, che è una delle cose che hanno segnato quest'anno, Neruda io non riesco a non metterlo, ecco. Beh, mentre invece Pedro era indeciso, nell'indecisione tra il Neruda e il Club, ha scelto Il Club. Ma lui c'ha tutto un cattolicismo spagnolo che si deve far perdonare, quindi ha dato più sul Club. Il Club è un film molto interessante, secondo me è un film un pochino più punitivo e alla lunga, pur piacendomi tantissimo, un film un po' troppo attesi, mentre Neruda è un film che secondo me, pur essendo anche quello sotto certi aspetti un film attesi, è un film più libero, che travalica in maniera, stravolge, diciamo, i limiti che lui stesso si dà in maniera più geniale, ecco, sì, insomma, quindi sì. Alla fine tra i due, messo alle strette, scelgo Neruda. Ok, abbiamo detto allora, i primi tre, poi altri due mettiamo un film che adesso in sala, così facciamo pubblicità, perché secondo me abbiamo parlato adesso di un film che parte, pur parlando tutt'altro, da un poeta universalmente riconosciuto, e parliamo di un film che parla invece di un piccolo poeta e parla della poesia come fattore puramente quotidiano, senza retorica, senza enfasi, che è Patterson di Jim Jarmusch. Jim Jarmusch è un altro autore che io idolatro, un autore che mi piace sempre tantissimo e che difficilmente negli ultimi anni trova distribuzione in Italia. Only Lovers Left Alive, che era un film sui vampiri passato a Cannes un po' di anni fa, secondo me bellissimo, in Italia è passato quasi sotto sordina. The Limits of Control, che è il suo film di finzione precedente a questo, non aveva trovato distribuzione in Italia. Per fortuna Patterson ha avuto una distribuzione, sta avendo proprio in questi giorni una distribuzione decente, è uscito in poche sale la settimana scorsa a Roma, Milano e Torino, ma da oggi è in sala in parecchie città, e quindi è un film finalmente che ha una visibilità. Patterson è la storia di un autista di autobus che scrive poesie e che nel suo tempo libero, nella sua pausa pranzo, che ha una moglie un po' pazza a casa che lui ama molto, un cane che combina qualche guaio. È un film fatto di microscopiche cose, di sensazioni, di città soprattutto, perché Patterson è il nome sia del protagonista che della cittadina del New Jersey dove si svolge il film, che una città molto paesotto. È sì una città paesotto, ma che rimanda però alla cultura poetica americana, certo. Perché lì William aveva scritto appunto il suo libro Patterson, che era anche lì la poesia del quotidiano, scritto da uno dei più grandi poeti, diciamo, della contemporanea poesia americana, della moderna poesia americana. Jarmusch riesce a creare un film costruito su pochissime cose, su niente, su sensazioni, su stimoli, su emozioni, ma che è esso stesso un atto poetico di amore verso la poesia del quotidiano. Per me è veramente un piccolo miracolo di film, che spero che, insomma, chi sta all'ascolto, andate a vederlo, perché vale la pena e va sostenuto, perché è un tipo di cinema difficile da vedere, soprattutto in queste feste di Natale in cui, diciamo, le sale sono invase da tutt'altro, quindi okay. Insomma, è un film che vale veramente la pena scoprire, sostenere, lasciarsi cullare da questo film che è fluido, magmatico, liquido, insomma, davvero bellissimo. E Dulcis in Fundo? A Dulcis in Fundo faccio una provocazione, insomma, eccola, cioè, un film che hanno odiato in tantissimi, e su cui, diciamo, sulle sulla Croisette, sulle bacheche social, sulle riviste, su tutto c'è stata una specie di tuonar di lame proprio su questo film, che è The Neon Demon di Nicholas Winding Refn. È un film che io ho amato e che ho avuto ancora più voglia di difendere proprio per gli attacchi fortissimi che ha ricevuto. È un film fastidioso sotto mille aspetti, è un film che è stato criticato per tutte cose molto vere, perché è un film estetizzante, perché è un film furbetto, perché è un film che strizza continuamente l'occhio, perché è un film ultra patinato. Però è un film che paradossalmente si mostra più superficiale di quello che in realtà è. Refn è un furbacchione, Refn è uno che sa usare il cinema e lo ha sempre dimostrato. In questo caso è un film che parla di identità tra bellezza e superficie in una maniera anche quella molto provocatoria. Secondo me è un film che ti prende in giro mentre lo vedi, bisogna averne anche la consapevolezza. È un film che compiace, nello stesso tempo seduce, nello stesso tempo frega lo spettatore. È un film che è stato accusato per cose di cui il film è assolutamente consapevole, che sono parzialmente vere, ma è vero anche il contrario. È un film di fronte, un film che a me continua ad affascinare a mesi e mesi di distanza dalla prima visione. E insomma, sono quei film che, visto che ha fatto schifo quasi a tutti, visto che a me è piaciuto molto, mi viene gran voglia e grande urgenza, come dicono i critici importanti, di difendere. E anche di questo ne parliamo tra un po'. Poi a me scoccia il fatto che Refn, quando insomma fuori dai circuiti festivalieri lo conoscevano in pochi, quando è passato Drive è passato come il grande genio, e quindi Drive era il film che piaceva a tutti. Nel tempo di due stagioni lui ha continuato a fare quello stesso tipo di cinema ed è diventato un cretino. Ecco, allora a me questa nevrosi critica mi dà un po' i nervi, e quindi io penso che Refn, con tutte le furberie e con tutte le ostentate superficialità, sia un cineasta molto interessante, e quindi ve l'ho beccato in cinquina. Benissimo. Fede, allora io ti ringrazio, ti abbraccio e ci sentiamo, spero. Volevo solo dire una cosa, che questo anno, che è stato molto criticato da più, secondo me non è stato un anno poi così malvagio, e volevo sottolineare che, sebbene invece il cinema italiano probabilmente ha avuto un po' di problemi quest'anno, è stato un anno piuttosto interessante per il cinema d'animazione, e ho dolorosamente tenuto fuori alcuni film che sono stati secondo me bellissimi e importantissimi, e quindi ve li voglio citare rubandovi spazio. Vai. È il più bello di tutti, che è La mia vita da zucchina di Claude Barras, che anche quello era a Cannes, che è tristemente scomparso recentemente dalle nostre sale nell'indifferenza generale, che è un film meraviglioso. Ma quest'anno sono usciti in sala La canzone del mare di Tom Moore, che è un film irlandese bellissimo di animazione, Zootropolis, che è forse il miglior Disney da molti anni a questa parte, Kubo e la spada magica, che è un bellissimo film della Laika, che è un altro film molto interessante e anche un po' adulto, e c'è stato anche Anomalisa, che è forse uno dei film di animazione per adulti di Charlie Kaufman più interessanti degli ultimi anni. Quindi volevo sottolineare che insomma, quando poi si giudica la qualità di un'annata, bisogna vedere moltissime cose. Ad esempio, l'animazione per me quest'anno ha avuto un'annata eccellente, e sono curioso di vedere quello che succede agli Oscar. Così, tanto per dirne una. Un abbraccio e a presto, Fede. Grazie ciao. A voi, ciao, un abbraccio e buon anno a tutti. Ciao, auguri. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet ondarossa.info, sull'home page colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate sugli 87.9 in modulazione di frequenza e anche in streaming, sempre dal sito della radio. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Continuiamo con i collegamenti. Eccoci con Nicola Falcinella. Ciao caro. Ecco, ciao a tutti, buongiorno. Che dici, tutto bene? Sì, dai. Sei in giro. Sei per strada, però ti sento abbastanza bene. Sì, allora, però... Nicola, mi fermo in un angolo, forse più tranquillo se non passa una sirena. Fuggi dalla sirena. Dimmi. Allora, dici di quest'anno e dici delle tue scelte. Allora, quest'anno è stato un buon anno, ci sono stati parecchi film belli che meritano considerazione, quindi la limitazione a 5 è stata abbastanza difficile e sarà anche se io ho avuto problemi a scegliere. Ci sono parecchi film belli e sempre un problema ridurre la lista a pochi. E, non c'è il filmone proprio da quel da amore totale. Ci sono tanti film che mi piacciono, che mi piacciono anche tanto, ma da entusiasmarmi del tutto forse non c'è. E la lista è molto americana, molto per rispetto al mio. Ho notato anche la mia quest'anno, Nicola. Come? Ho notato anche la mia, molto molto statunitense. Sì, alla fine è molto statunitense, sì, e metterei quattro film americani più un regista iraniano che però ha lavorato parecchio in America e che però questo film l'ha fatto in Italia. Comincerei da lui, da Amir Naderi, e il film è Monte. Sì. E è un film visionario, folle, non è un film perfetto forse, però ha una componente talmente estrema, folle. Poi mi sento in quest'uomo che vive sulla montagna che non riesce a mantenere la sua famiglia con quello che dà il suo povero campo. E poi c'è anche una storia di sortilegio e anche di quest'uomo che si mette a martellare ossessivamente la montagna per cercare di ottenere qualcosa, un pochino mi ci rivedo, non so, non c'è quella cosa che tu ti immedesimi, almeno io in questo rapporto così con la montagna, con la natura, mi ci trovo molto. In uno sforzo titanico inutile, insomma. Sì, inutile soprattutto. E quindi questo è decisivo. Poi un altro film che mi piace molto, che anche questo forse ha una componente di inutilità, però è delizioso, è Patterson di Jim Jarmusch, che è nelle sale proprio in questi giorni, sta uscendo in questi giorni, ed è un film di dettagli, è apparentemente piccolo ma poi profondissimo come i film di Jarmusch. È un film sulla poesia del quotidiano, possiamo dire. Il protagonista è un conducente di autobus che scrive poesie e vive in questa cittadina del New Jersey che si chiama appunto Patterson, come anche lui. È appunto un film di piccole cose, di uscite a bere regolari, a bere una birra con gli amici nel solito bar, uscite con il cane, che tra l'altro è un personaggio divertente, dispettoso film, anche anche sì. Sì, infatti lui il cane è la cassetta della posta, insomma. Ci sono, e poi la sua compagna, che invece è una non esce di casa, è un po' una tipa molto molto cool, molto alla moda, quindi anche il contrasto tra questi due personaggi che stanno insieme ma in fondo sono molto diversi. Lei vuole essere, segue tutte le mode, tutte le cose del momento, quanto lui vive in un'altra dimensione. Ricorda Gaetano Bresci, che se non ricordo male partì proprio da Patterson per tornare in Italia a uccidere il re. Cita Petrarca, Dante, insomma è un è un film appunto piccolo, ma che poi guarda anche a cose importanti. Poi un altro film americano è Sally di Clint Eastwood con Tom Hanks, che in uno dei suoi ruoli migliori a mio giudizio è questo comandante di un aereo che si trova a far fronte a una situazione imprevista, e lui mette davanti la sua responsabilità verso gli altri, e è un uomo che dice che è meglio un ritardo di un incidente che un po' il suo motto, ed è che non sta in pace finché tutti i suoi passeggeri sono stati in salvo dopo questo atterraggio d'emergenza sul fiume Hudson a New York. È tratto da una storia vera, però questo è anche secondario. La cosa importante è proprio questo elogio della responsabilità di ciascuno di noi che fa Eastwood. È un film che è molto, molto classico, in apparenza così abbastanza, non ha niente di particolare, però si trova sotto il tocco di Eastwood. Poi un altro film, questo per me è stata una sorpresa, è Il libro della giungla. E infatti ero un po' indeciso se metterlo, devo dire che è stato in lizza con un film cinese che è Al di là delle montagne di Jia Zhangke, e poi alla fine ho scelto Il libro della giungla perché, anche se Il libro della giungla era già diventato un film, questo mi ha riservato delle grandi sorprese, perché è un film di effetti speciali ma con l'anima, perché anche gli effetti speciali, se usati bene, possono essere utilizzati per fare grandi cinema. È banale, ma non sempre succede, anzi non è un po' difficile, lo vediamo difficilmente, spesso i film con grandi effetti speciali sono fatti più per lo spettacolo che per uno spettacolo un po' fine a se stesso che per rendere qualcosa di vero. Invece questa storia di Kissing rivive veramente in questa, nel film di Favreau, e ha delle scene secondo me meravigliose, quasi d'antologia, e che sarà una versione che resterà. E poi credo che manca un film. Allora, Sally Patterson, ho un vuoto di memoria intanto che mi viene in mente qual è il quinto film. C'è un film italiano extra che non è nella cinquina, ma lo vuoi menzionare? Sì, nel film italiano lo menziono sempre se non è nella cinquina, ed è Fiore di Claudio Giovannisi. Okay. E mi sembra in un anno che per il cinema italiano è andato un po' così, un po' di scontino, non ci sono stati tanti film davvero importanti, e ci sono stati diversi film interessanti, però forse non i filmoni. E Fiore secondo me è un altro passo della crescita di Claudio Giovannisi, che è uno dei nuovi autori italiani da tenere d'occhio, e racconta un amore attraverso le sbarre di un carcere tra due adolescenti, e riesce davvero a rendere sia il mondo degli adolescenti, quello del carcere, e anche un po' dirci qualcosa in più della nostra società. In più va a beccare due ragazzi giovanissimi ma molto bravi, soprattutto Daphne, che secondo me farà strada. Tra l'altro sì. Fiore è stato votato da Giona, quindi ha al momento un voto e una menzione, sta messo bene, ecco. Ah, proprio nella cinquina? Sì, nella cinquina l'ha messo. Ah. È stata tutta italiana la sua cinquina. Ah, coraggioso. Io quasi tutta americana. Tra l'altro vedo. Tra l'altro, Nicola, arrivano telefonate per suggerirti il quinto, però io non posso influenzarti. Addirittura per suggerirti. No, adesso mi è venuto in mente. Volevo dire sulle liste, io vedo tanta gente che si strappano i capelli, che magari anche in Facebook così, o nei vari siti, blog così, la gente che commenta, che insomma si lancia strali perché una ha messo un film e una ha messo altro. Però nella cinquina quest'anno io avrei potuto mettere 20 film diversi, forse anche di più, e ci sarebbero potuti stare tutti, quindi è un po' difficile tirare, cioè sceglierne soltanto 5. E magari domani farei delle altre scelte. E comunque il quinto è Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater, che è un altro, anche Federico Pedroni, quindi è già a due anche questo. Vedi. Lo so che anche Federico con Linklater ha un rapporto stretto. Sì, Linklater è uno dei miei autori americani preferiti, uno che sento vicino. Secondo me ha una dote abbastanza rara nello scrivere i dialoghi, soprattutto nei dialoghi d'amore, nei dialoghi di cazzeggio. Le scene di cazzeggio sono di Linklater, mi piacciono molto. E questa storia ambientata, un arrivo al college nel 1980, ambientata in pochissimi giorni, che un po' anticipa l'arrivo al college del protagonista di Boyhood più di 30 anni dopo. Pur stando nel grande gruppo dei film di college, di cameratismo, di primo confronto con l'università, scoperta del mondo, anche del sesso, però Linklater trova una sua chiave originale e una sua personalità, e questo lo contraddistingue, riuscire sempre a reinterpretare le cose con un punto di vista personale suo. Bene. Nicola, io ti abbraccio, ci sentiamo nel corso dell'anno, intanto auguri. Tanti auguri anche a voi, a risentirci, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Questo Nicola Falcinella, proseguiamo con i nostri ospiti. La prima voce femminile, Emanuela Martini, ben ritrovata. Buongiorno, femminile marocca. Allora, intanto è un piacere averti di nuovo con noi, sempre per questo gioco delle cinquine che facciamo in una doppia trasmissione alla fine dell'anno e all'inizio di quello nuovo. Tu sei nella prima parte, un bilancio di quest'anno e poi le tue scelte. Buono, secondo me è un buon bilancio, perché mi sono trovata a fare la decina per Cineforum Online, sì. E devo dire che avevo tirato fuori, allora parliamo di quelli usciti sugli schermi, no? In Italia, sì. Avevo tirato fuori quelli che mi interessavano ed ero quasi a 20, per cui vuol dire che è buono. Sì, direi di sì. Anche se ovviamente si mescolano un po' i film dell'anno prima e i film di quest'anno, perché ce ne sono alcuni visti l'anno scorso, per esempio a Cannes, che sono usciti solo quest'anno. Certo, certo. Per cui direi complessivamente piuttosto buono. Poi c'è un sacco di roba piccola che automaticamente non viene menzionata in queste classifiche, però ci sono stati molti piccoli film molto molto molto interessanti. Bene. Un po' di tutto il mondo, eh? Sì. Allora procediamo. Primo assoluto Patterson di James Jarmusch, che a questo punto diventa il primo con 3 voti già. Perché è proprio qui Jarmusch quintessenziale, c'ha tutto, cioè come si riesce a fare cinema riuscendo a mescolare immagine, parola, parola scritta, laconico come è sempre stato, humor, una malinconia infinita, è veramente un grande Jarmusch. Secondo Sally, sì, un altro che ogni tot anni tira fuori il fico che non t'aspetti, perché su un fico come Sally, di cui sappiamo tutto, sappiamo come va a finire, lui per un'ora e mezza riesce a tenerti, e te lo dice subito tra l'altro come va a finire per i pochissimi che non lo sanno, no? E ti riesce a tenere per un'ora e mezza in una tensione pazzesca. Poi veramente è un grande film sull'etica del lavoro, della, su fare bene il proprio mestiere, la professionalità e tutte queste cose, veramente un grandissimo film. Al terzo posto avrei un exequo, perché trattasi anche dello stesso regista, cioè sono i due film di Pablo Larraín, Neruda e Il Club. Eh sì, è già, è stato già oggetto di, insomma, sì, perché molti, almeno due, altri due si sono trovati nella stessa difficoltà, uno ha scelto un titolo e un altro ha scelto l'altro. Beh, dovessi proprio scegliere il più bello dei due, anche perché il più sorprendente probabilmente è Neruda, perché sì, Il Club è forse il film che ti aspetti più nelle sue corde, più vicino ad alcuni dei film che ha fatto, anche se in realtà Neruda è vicino a Tony Manero indubbiamente come, sì, come stile, però Neruda è anche questo il film che non ti aspetti, sì, perché la storia è raccontata in questa maniera romanzesca, ti sembra poi veramente di leggere la narrativa latinoamericana. Un film straordinario. Comunque Il Club poi riesce a trattare il tema che tratta in una maniera con un'intelligenza, con una leggerezza di mano, con un'ironia e una violenza straordinarie. Sì. E poi ho un problemino, credo che cioè Carol e il figlio di Saul li consideriamo usciti quest'anno o dell'anno scorso? Carol è uscito inizio 2016 e Il figlio di Saul è uscito a gennaio 2016, e allora a posto, e quindi andrebbero a coprire tutti i due ultimi posti mancanti. Okay. Vabbè, per ovvi motivi, però vorrei citare un piccolo film che è uscito su Netflix, e quindi non so se lo vogliamo considerare tra le uscite ufficiali. Uscito su Netflix, proviamo, intanto diciamolo. Ed è Tangerine di Sean Baker. Tangerine, ok. Tangerine è, sì, quello che si svolge tutto in una, sì, sì, pomeriggio sera, ci sono le trans, tutto girato con l'iPhone 5, assolutamente irresistibile, una comicità travolgente. Vabbè, Sean Baker è uno dei grandi giovani, cioè uno dei migliori dei giovani americani emergenti, e Tangerine è veramente una sorpresa per chiunque. Più piccolo di così non si può, appunto, girato con l'iPhone 5, una comicità straordinaria, ed è però, fa quota a sé perché è uscito su Netflix solo, sì, poi è stato a festival, cioè io diciamo che lo menzioniamo, no? lo menzioniamo ok, credo di non avere altre possibilità, vero? No, vabbè, se c'è un'altra menzione, le menzioni possono essere anche diverse, insomma. Menzioni, ah, menzioni allora ce ne sono tante. Hateful Eight di Tarantino, ok, e La grande scommessa, Big Shot di Adam McKay. La grande scommessa, che rischia di essere uno dei miei cinque, invece, vedi? La grande scommessa, anche il film in cui io non ho capito assolutamente nulla di quello che succedeva nel film, ovviamente, essendo una, veramente una capra per tutto quello che riguarda la finanza e cose simili. Beh, però chiarisce anche molto su quella che è stata la bolla immobiliare che ha fatto scoppiare la crisi, insomma, questo lo rende a portata, secondo me, del grande pubblico, ed è un grande merito, con un grande cast, un grande film di cast, secondo me. Sì, sì, ti acchiappa, a parte attori straordinari, ti acchiappa, poi è la narrazione della grande scommessa, che grande ritmo, notevole, certo, perché non perde mai di vista quello che è il suo obiettivo. Sì. Non si perde mai, più almeno tranne una cosa piccolissima, su storie personali, niente, va dritto allo scopo ed è notevolissimo. Bene Emanuela, io ti ringrazio, è stato un piacere, e speriamo a presto durante l'anno. Intanto auguri. Grazie a voi e buon anno. Auguri, buon anno, ciao. Ciao, ciao. E questa era Emanuela Martini, noi si prosegue. Alberto Crespi, ben ritrovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Non potevi mancare in questo appuntamento doppio della fine anno e inizio anno nuovo, con le cinquine tra i film usciti in sala nel 2016, i cinque preferiti dai nostri amici e colleghi. Allora Alberto, intanto un bilancio di quest'anno. Un bilancio cinematografico di quest'anno è dignitoso, nel senso che sì, si sono visti dei bei film. Non è stato forse un'annata tra le più memorabili delle ultime, ma io temo, Federico, non so, dimmi se sei d'accordo, che non si possa fare un bilancio del cinema del 2016 senza pensare anche all'ecatombe di personaggi che hanno veramente impoverito quest'arte anche negli ultimissimi giorni. Sì. Noi stiamo andando in onda nelle ore che seguono la scomparsa di Debbie Reynolds, che è morta il giorno dopo la sua figlia Carrie Fisher, e poi nel corso dell'anno veramente le perdite sono state talmente tante che il senso di scoramento, sì, nella cultura in generale, letteratura alla musica, passando per il cinema. Certo. Pensiamo anche alla musica pop, con le scomparse di David Bowie, che peraltro era anche un uomo di cinema, di Leonard Cohen, di Keith Emerson. Insomma, è stato un anno terribile, lo stiamo dicendo ad ogni piesso spinto in questi giorni, in queste ore, però, e non è ancora finita. Non è ancora finito, naturalmente, non possiamo evitare di ripeterlo e di dire che quindi è stato un anno faticoso. Sì. Tanto che mi viene da dire che lo stavo guardando in questo momento, guarda, l'ho appena iniziato e riprenderò non appena metterò giù il telefono. Mi viene da dire che forse il film più significativo del 2016 è il documentario Bright Lights, presentato a Cannes. Bright Lights significa luci brillanti, che racconta appunto la storia di Carrie Fisher e di Debbie Reynolds. Ed è un documentario che ora sto guardando perché a distanza di 8 mesi dalla presentazione a Cannes è diventato di tragica attualità. Ma naturalmente i film dell'anno sono altri, se vuoi parto con la cinquina, se invece vogliamo ancora continuare a elaborare i lutti, andare avanti fino a domani. No, per carità. Allora, la mia cinquina, parliamo di film usciti naturalmente, sì, sì, per cui un paio erano a festival dell'anno precedente. Comunque, io come cinquina voterei 3 film europei, ovvero sì, Il figlio di Saul di Laszlo Nemes, che è un film notevolissimo sull'olocausto visto in un modo molto particolare, il film Un padre e una figlia di Cristian Mungiu, il regista romeno, sì, che vinse la Palma d'Oro anni fa con un altro bellissimo film, Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, lo metto nella cinquina con orgoglio, anche se negli Oscar non c'è arrivato, e poi 2 film americani, diversissimi proprio, i due vertici di una forbice amplissima, ovvero Patterson di Jim Jarmusch, che è nei cinema in questo momento e che è uno dei film più belli di Jim Jarmusch. Ed è anche il primo in questo momento tra i nostri ospiti, a 4 voti. Benissimo. E Oceania mi è molto piaciuto. Ho trascurato 2 titoli, ecco, anche lì una forbice amplissima. Molto premiato, molto giustamente premiato, Io, Daniel Blake di Ken Loach. Diciamo che poteva entrare tranquillamente nella cinquina a scapito di uno degli altri. E poi a me è piaciuto molto anche Rogue One, altro film. Rogue One è lo spin-off, il capitolo apocrifo, diciamo così, di Star Wars, uscito di recente, dove nell'ultima inquadratura si vede appunto Carrie Fisher, un'inquadratura che ci ha molto commosso quando l'abbiamo vista, e Carrie Fisher era viva, e a ripensarla oggi diventa ancora più commovente a pensare che se n'è andata. Queste due menzioni le segno chiaramente. Sì, sono 2 menzioni speciali, sì, diciamo così. Sì, ho fatto sì, una settina anziché una cinquina. Non so se si può dire. Hai contribuito alla testa di Patterson, che è staccatissimo. Patterson è un film notevole, secondo me. È un po' come Io, Daniel Blake, è una specie di spremuta di Jim Jarmusch, come Io, Daniel Blake è una spremuta di Ken Loach. Quei film in cui un regista mette riesce a depurare il suo stile fino a renderlo quasi invisibile. Io Daniel Blake secondo me è forse il film più bello di Ken Loach. Patterson, non so se è il film più bello di Jim Jarmusch, perché ne ha fatti altri, anche Ghost Dog era molto bello, certo. Down by Law all'epoca c'era piaciuto tanto. E io rimango anche molto legato al suo periodo New Wave anni 80 con Stranger Than Paradise, ad esempio. Sì, come no, che forse è il primo che vedemmo, sì, mi pare. Sì, uno ma, dei... ma anche Broken Flowers, che invece era un film di attori famosi, esatto. Era un bel film. Insomma, Jim Jarmusch è un bravissimo regista che a volte si è un po' ripetuto e che però qui si ripete nel modo migliore, ovvero mette veramente in questo film tutto quello che gli piace, tutta la sua poetica, e riesce appunto a sintetizzarla con una felicità veramente rara. Sembra il film, proprio perché parla di poesia, mi viene da usare questa metafora, il film sembra quasi un haiku, una di quelle poesie giapponesi, sì, di tre versi, no? Sì. Che quando sono belli in tre versi ti dicono la storia del mondo. Ecco, mi sembra che Jarmusch in questo film riesca a fare questo, con rimandi anche alla storia. Patterson, come magari gli ascoltatori che non l'hanno ancora visto non sanno, Patterson è sia il luogo della città del New Jersey dove si svolge il film, sia il nome del personaggio. E poi è una città con storie strane, la città dove viveva Gaetano Bresci, cioè l'anarchico regicida, che poi tornò in Italia e uccise il re a Monza nel 1900. Ecco, una città piena di strane storie che Jarmusch riesce quasi miracolosamente a tenere tutte assieme. Ho avuto anche un lampo nuovo per Jim Jarmusch, è Dead Man. Sì, è vero, con la colonna gran sonora film, di Neil Young, gran film, gran nero, film. Un western metafisico. Sì. Bene. Vero. Bene. Alberto, è stato un piacere e ci sentiamo nel corso dell'anno. Intanto auguri. Quando volete, auguri a te, auguri a tutti gli ascoltatori per un 2017 molto più allegro di questo. Bene, t'abbraccio, a presto. Anch'io. Ciao. E questo era Alberto Crespi. Andiamo avanti, perché tra l'altro quest'oggi Tracce di Cinema non andrà in onda, quindi ci possiamo anche allungare un po'. Quest'oggi gli ospiti li lascio parlare a ruota libera, insomma vanno avanti anche ben più dei 10 minuti che solitamente sono riservati agli ospiti telefonici nella trasmissione Visionari. Ben ritrovato Fabio Ferzetti. Buongiorno a tutti. Eccoci, come stai? Bene, fatemi spegnere la diretta, se no siamo in stereofonia, è una cosa antipatica. Eccoci. Ecco qua. Allora, quindi ti sei fatto un po' un'idea? Mi sono fatto un po' un'idea, sì, ho anche ascoltato i miei cari amici e colleghi e quindi adesso sono pronto a polemizzare. Perché è incredibile come siamo tutti d'accordo su alcuni titoli, cioè proprio abbastanza impressionante la unanimità che registrano Patterson e i diversi film di Larrain. Però ne approfitto per dire che anche Larrain, perfino Larrain, può sbagliare. Ecco. Sbagliare è un parolone. Può fare film, come dire, al di sotto di Larrain, e che Jackie è un bellissimo film americano diretto da un regista cileno che ha fatto e farà molto di meglio. Che lì ha un copione da seguire, una mitologia già preesistente, quindi dei conti da fare. Parliamo del film su Jacqueline Bouvier, Kennedy e poi Onassis, insomma, che vabbè, che è vista solo nei due giorni che seguono la morte di Kennedy, ma insomma lo dico perché è un film che ahimè già so che avrà più pubblico degli ignoratissimi ma bellissimi, magnifici oltre ogni dire, El Club, la spagnola e Neruda, che sono proprio due capolavori di enorme impatto, fra l'altro, di una grande forza, proprio quei film che ti fanno letteralmente saltare dalla sedia, no? Che tutti sogniamo e che se ne incontrano insomma sempre di meno. Sì. Ed è la ragione per cui io non includerò nella mia lista, nonostante adori il mio quasi gemello astrale, un po' poco più vecchio di me, ma insomma nato quasi negli stessi giorni, Jim Jarmusch, da sempre, bei tempi appunto di Stranger Than Paradise, che per fortuna è ricordata, nessuno ricordava. Mi stavo innervosendo. Capolavoro, è un regista che ha fatto praticamente solo capolavori, e talmente fa solo capolavori che questa volta può anche stare così fuori dai primi cinque, perché il film è così bello, così controllato, così consapevole, così appunto un film poetico sulla poesia, che insomma basta, cioè, è perfino troppo. Come quei musicisti meravigliosi che sono talmente padroni dello strumento, dell'improvvisazione, di tutto il repertorio che hanno, che potrebbero avanti due giorni, alla fine uno così. Poi nasce appunto il detto non sparare, no, sparate sul pianista. Cioè, insomma, Patterson soffre di troppa perfezione, un film che non esce mai, non c'è una goccia che va fuori dal contorno che lui ha disegnato. Cioè, ha fatto un disegno, poi ci ha messo i colori, probabilmente le stagioni, il sole, la luce, le nuvole sono arrivate a comando, perché poi è così quando tu progetti un film perfetto, appunto la grazia arriva e fai un film come Patterson. Quindi poi tanto hanno già citato tutti gli altri, quindi io lo tengo fuori, anche perché cinque sono pochi, però sta lì, sta immediatamente sotto. Però sì, come dire, dal regista di Only Lovers Left Alive, Ghost Dog, Dead Man, tipo in fondo Broken Flash, cioè sono tutti film che in qualche modo sono perfino superiori per me a Patterson. Sì, sì, sono quindi, d'accordo. Insomma, ecco, quindi in fondo sta lì. Mentre, vabbè, uno l'ho già detto, poi passiamo alla stagione, ribaltiamo la cosa, io comincio invece dalla lista. Allora, sicuramente Neruda, tu hai detto Jackie, quindi? Jackie no, appunto, sicuramente Neruda, con Neruda, il club, tra parentesi, ma insomma per non rubarne, ne metterei due, ma sarei un po' ridicolo, basta Neruda, sottinteso il club, che fra i due è quello che preferisco per le ragioni che ha detto, che a questo punto Emanuela Martini, insomma, per quanto forse lo preferisco perché è l'ultimo che ho visto, se avessi appena visto il club forse direi che il club è superiore, perché è un film sbalorditivo dall'inizio alla fine, sì, stato, sì. Volevo rivedere, sì, ma andremo tra l'altro visti più volte per scoprire i loro trucchi, perché tanto conosciamo tutti molto bene il cinema classico, abbiamo visto, rivisto, analizzato, letto, studiato, tanto invece trovo che soprattutto noi facciamo questo mestiere, come dire, di critici militanti e comunque travolti da un'attualità sempre più soverchiante, dal numero mostruoso di film che esce o che passa appunto in televisione, su Fuori Orario, su Netflix, uno che vediamo nei festival. In realtà poi spesso ci limitiamo a delle prime impressioni che, come diceva Voltaire, diffidate della prima impressione, spesso è quella giusta, vale anche per i film, però insomma un secondo e un terzo sguardo non guasterebbe, e purtroppo appunto proprio noi che lo facciamo per mestiere, secondo me non glielo diamo abbastanza questo secondo sguardo, parlo per me naturalmente, sì, ma credo che sia un problema comune. Comunque è stato l'anno per me dell'America Latina, perché tre di questi film, scopro, sono latinoamericani e due addirittura sono cileni. Il secondo è La memoria dell'acqua di Patricio Guzmán, sì, è uno di quei film che fanno saltare tutte le distinzioni documentario o non documentario, come dire, è appunto è un grande poema lirico un po' alla Neruda, fatto però con le immagini, fatto con le parole, fatto con cioè moltissimo repertorio, cosa che io adoro vedere, film che insomma, usano creativamente l'immensa montagna di immagini preesistenti su cui siamo seduti e che spesso non conosciamo. Quindi La memoria dell'acqua, capolavoro assoluto, malgrado sciagurato doppiaggio italiano che ha reso così un po' pomposa e solenne la voce invece vera e naturale di Patricio Guzmán della versione originale, ma insomma, va bene, è anche un po' un'uscita un po' ristretta, chiaramente. Ma è uscita, sì, adesso poi non so, noi stiamo a Roma e a Roma il film è stato su comunque mesi e anche in piccole sale, per cui insomma ha avuto un grande tam-tam. No, è un film che è esistito, ci sono film che passano veramente come meteore, se ti giri un attimo non... Allora dell'acqua credo abbia trovato il suo pubblico. Il terzo film sudamericano è il colombiano E l'abbraccio della serpente di Ciro Guerra. Ah, palesemente di origine napoletana, probabilmente adesso colombiano, i due antropologi che a distanza di mi pare una so più se 30 o 40 anni, uno all'inizio del secolo, l'altro è durante la seconda guerra mondiale o durante la guerra di Corea, non è chiaro nel film, almeno non ho capito di quale guerra si tratta, uno va sulle tracce dell'altro e incontrano, lo dico per chi non l'avesse vista, è per me uno degli incontri folgoranti di quest'anno, io vado un pochino anche proprio a elettrocardiogramma, so come dire, che è veramente i colpi al cuore. Beh, questo mi ha lasciato proprio sbalordito, proprio due ore a bocca aperta, incantato dalla quantità di scoperte, di intelligenza del cinema e della storia e appunto e anche dell'antropologia naturalmente che c'è dentro, perché lo stesso film ha uno sguardo antropologico su questi due antropologi che sono a loro volta studiati dallo sciamano, prima giovane e poi anziano. Come dire, lo sguardo è duplice, questo gioco di sguardi fra le due culture che si osservano è sono assolutamente ad armi uguali, sono persi nell'Amazzonia, uno ha con, te tutto il, ha con sé tutto il sapere dell'Occidente, l'altro ha con sé tutto il sapere per noi quasi del tutto inconoscibile, appunto antico, della sua cultura di indio dell'Amazzonia, anzi di sciamano che vive solo, isolato, in un luogo particolarmente sperduto, quindi depositario di un sapere sicuramente molto molto molto alto e molto difficile da comunicare. Io ho trovato un film entusiasmante, sono un po' sbalordito che i miei amici e colleghi non l'abbiano citato, e mi sospetto che molti non l'abbiano visto, perché questo ha veramente circolato poco, ha avuto un'uscita estiva, è rimasto a lungo in sala, appunto io so di Roma, immagino anche in altre città, e quindi è un film che appunto, mi torna, io so che il film ha funzionato quando dai non, come dire, addetti ai lavori, non dagli amici del giro mi arrivano appunto pareri, e dicono, ah ma cosa ho visto? Mm-hmm. E quindi, però insomma certo è stata un'uscita estiva, insomma poi alla fine ecco. Le uscite estive spesso sono uscite nel deserto. Sì, quello è un film che meriterebbe una circolazione molto più massiccia, purtroppo. Mm-hmm. E abbiamo finito col Sud America, ma potrei aggiungerci un altro film importante che nessuno ha citato, perché non è tra i primi 5, forse neanche tra i primi 10, però insomma lo menzioniamo. Eh sì, è Desde Allah, non ricordo più il titolo italiano, finché ha vinto il Leone d'Oro l'anno scorso a Venezia, ma che è uscito poi quest'anno, di Lorenzo Vigas, venezuelano, così con questa confusione, questa sovrapposizione tra Cile e Venezuela, consiglierei di vederli entrambi a un certo senatore grillino che ha parlato del Cile, del Pinochet in Venezuela, ecco, forse vedere questi, ecco, idealmente glieli metterei sotto l'albero per la Befana, magari se vede i due film scopre dove è il Cile, dove è il Venezuela, che hanno storie un po' diverse alle spalle. Per dire che insomma quest'anno il Sud America ha volato altissimo, magari è un caso, ma non credo, perché nei festival vediamo sempre più film appunto che magari non arrivano in Italia, ma importanti appunto da paesi come il Cile e l'Argentina in primo luogo, ma non solo, appunto uno di questi film è colombiano. Ne ho detti tre. Beh, non posso non citare, io come dire vado anche un po' per campione film che almeno portano dentro, ho citato un documentario, non posso non citare un film d'animazione, morirei dalla voglia di citare Anomalisa, ma forse La mia vita da zucchina di Claude Barras è ancora più bello. È tra l'altro un altro film a cui il pubblico italiano ha voltato le spalle in modo, fermandosi così all'impressione di stranezza e fastidio che provoca questo titolo. Gli italiani non siamo sempre spiritosissimi, perché nessuno ha avuto la curiosità di andare a vedere cosa c'è dietro questo titolo. Fa purtroppo un film d'animazione per adulti in Italia è una specie di contraddizione in termini, è come se fosse una moto da enduro per bambini o un triciclo appunto per, non so, viene visto così come una roba strana che in fondo interessa solo pochi pazzi. Beh, vabbè. Ragazzi, peggio per voi, tutti quelli che non hanno visto La mia vita da zucchina sappiano che si sono persi un capolavoro della, come dire, letteratura nel senso più ampio della parola, insomma dell'immaginario legato all'infanzia, che è forse il più universale che esista, perché insomma se superiamo i 10 anni d'età un'infanzia bene o male l'abbiamo avuta a tutti, e quindi non c'è strato più profondo con il quale comunicare che quello, quindi che adulti convinti che questo non lo riguarda scelgono poi invece di non vederlo, vabbè, appunto fatti loro, come dire, però ecco, facciamoli del male, come diceva Nanni Moretti, veramente un capolavoro. Ma questo vale anche per Anomalisa, e poi comunque nella categoria film d'animazione i film in stop motion, per carità, sono proprio in un ghetto con 5 stelle gialle sul petto, insomma io veramente visti solo dagli aficionados, purtroppo, perché questa è anche la situazione del nostro paese. Li ho detti tutti e 5, no, mi manca un immancabile francese, perché insomma continua a fare un grande cinema, anche questo mi sembra che non l'abbia detto nessuno. Beh, I miei giorni più belli di Arnaud Desplechin, altro capolavoro estivo uscito alla Chetichella e quindi forse non visto da molti, ma insomma film magnifico, romanzo autobiografico che reinventa la propria vita, che si connette ad altri film di quest'autore, che pure in Italia insomma sono usciti tanti suoi film ormai, però di quelli che non forano il muro dell'indifferenza, restano confinati agli intenditori, ed è un peccato perché insomma anche questo è un film che chi per caso o per intuizione insomma, per scelta si avventura a vederlo, parlo anche del grande pubblico, a me molto più caro che quello di noi, insomma, siamo scontati, siamo acquisiti, beh, insomma, ne esce incantato, cioè è un film di immensa comunicativa, non è un film difficile, anche se è un film che vola altissimo, voglio dire, dalla prima all'ultima scena, e che lavora moltissimo sui diversi piani del racconto, sui piani e temporali e sui punti di vista, ed è insomma la storia di un personaggio abbastanza folle, quindi forse non sempre semplicissimo da seguire, però insomma, per me è stato uno dei film più entusiasmanti dell'anno, senza alcun dubbio. Ne restano fuori moltissimi, mi rendo conto, resta fuori, ma perché non riesco a non considerarlo un film dell'anno prima, Il figlio di Saul, che è indubbiamente uno dei grandi film dell'anno, resta fuori Carol, stessa ragione, per me è un film di due anni fa. E no, Carol però è uscito lo so, ma infatti io li cito, perché appunto sono comunque film che ho visto con grande amore, però sì, mi hanno suscitato reazioni molto forti, insomma, anche cioè, sia emotive sia poi critiche, un'analisi sì. Più ravvicinate, insomma, sono film bellissimi. Resta fuori tutto un pacchetto di grandi documentari, tra cui Non metterei Bella e Perduta di Pietro Marcello, che qualcuno citava, che è sì. Magnifico, ma che è veramente un film del 2015, cioè quello uscito in Italia nel 2015. Ah, quindi non vale neanche come menzione. Però il primo è sicuramente Fuoco a Mare, altro grande assente, bravo Alberto Crespi che lo ha ricordato, io non riesco a metterlo tra i primi cinque, ma insomma ci starebbe benissimo. Sì. Allora, un po' snobbato da tanta critica italiana, non so perché, che è sempre così molto voglioso di fare le bucce, per me è un grande film che affronta un problema molto difficile in una chiave appunto non italiana, dimenticandoci che noi sappiamo tutti dov'è Lampedusa, che la vediamo tutte le sere al telegiornale, eccetera eccetera eccetera, e pensando che forse questo problema riguarda tutto il mondo, e appunto lavorando sulle metafore, sul contenuto poetico, su una serie di portavoce delegati dello spettatore, che sono appunto i personaggi che Rosi mette in scena, perché sì, è vera e propria messa in scena quello che fa, anche se il film resta un documentario, per avvicinarci a questo gorgo nero spaventoso, osceno, insomma, su cui è difficile posare lo sguardo, appunto, che è la tragedia dell'immigrazione, dei morti annegati, dei barconi stivati all'inverosimile, che poi però appunto riesce ad avvicinarsi, a entrarci e a portarci dentro questo inferno, perché appunto sono due viaggi all'inferno, l'altro grande documentario invece, altro viaggio all'inferno, così, tutto invece di natura mistico, mitica, sacrale, ancestrale, è appunto Into the Inferno di Werner Herzog, che abbiamo visto a Roma e credo sia andato già su Netflix anche quello, credo, quindi mi permetto di citarlo tra i grandi film dell'anno. Ma poi ci sarebbe da citare Safari di Ulrich Seidel, bellissimo, un autore che non sempre amo, anzi spesso detesto, ma stavolta l'ha azzeccato, che si è visto a Venezia, il segnalo, semmai uscirà o passa su qualche satellitare, di non perdere, e moltissimi altri. Io sono abbastanza impazzito anche per Florence, del misconosciuto Stephen Frears, che è uno dei grandi registi contemporanei secondo me negli ultimi 30 anni, ma che ha il difetto di essere troppo eclettico, nessuno lo inquadra, nessuno sa bene che razza di animale sia, ancora non hanno capito, e quindi ogni volta, come dire, riparte a zero. Florence è un grande film, al di là della piacevolezza è molto c'è molta più sostanza e complessità di quanto non sembri. E avrei voluto citare anche Weekend di Andrew Hay, forse uno dei più bei film di argomento gay che io abbia visto nella vita. Tutti vogliono qualcosa, era giusto ricordarlo, di Linklater, insomma sono moltissimi, perché è stata una stagione in realtà ricca, forse frantumata, sparpagliata, sono tutti film che arrivano da paesi diversi e che lavorano su terreni molto diversi, no? Ho ricordato anche The Look of Silence, spero, di Joshua Oppenheimer, non ricordo se ne ho parlato. No, The Look of Silence. Beh, insomma, anche lì c'è il documentario, è proprio cambiato molto in questi anni, e appunto si permette di raggiungere zone sia in senso geografico, sia emotivo, sia, come dire, zone di quell'immenso terreno che sta a cavallo appunto fra la ripresa della realtà tale quale e la messa in scena, quindi in qualche modo la finzione, insomma, con una potenza, una disinvoltura che fino in fondo a pochi anni fa non aveva, ormai è diventato, come dire, abbastanza patrimonio comune, anche se certo sono finché hanno sempre una circolazione abbastanza limitata, però insomma testimoniano quantomeno nel mondo di chi il cinema lo fa la crescita di una sensibilità molto, molto forte e molto importante, anche perché appunto fa un po' da contravveleno alla massa crescente ogni giorno di immagini che ci sommergono indiscriminatamente da ogni possibile canale informativo, senza filtri, senza mediazione, senza spesso senza nessuna intelligenza, senza uno sguardo, che però inquinano le acque, a mio modo di vedere, e che, quindi, hanno cambiato molto le regole del gioco. Quindi è tanto più importante in questi anni che ci sono appunto dei grandi documentaristi che lavorano sulle immagini del reale, riorientandolo, leggendolo, interpretandolo con acutezza e ricordando appunto che bisogna anche saper guardare, non basta vedere tutto ciò appunto che ci arriva appunto indiscriminatamente tutti i giorni, ci piove addosso, spesso frastornandoci più che facendoci capire realmente. Però vabbè, sarebbe un discorso lungo. Io ho controllato anche le tue menzioni, e per esempio Carol, da te menzionato, aveva già due voti, idem per Tutti vogliono qualcosa, idem anche per Il figlio di Saul, e idem anche per Fuoco a mare. Ricapitolando invece le tue scelte, io allora Neruda, La memoria dell'acqua, e L'abbraso della serpiente, Una vita da zucchina, e l'ultimo, scusami, I miei giorni più belli, I miei giorni era più il titolo belli. Italiano, okay. Spero di non sbagliarlo. Ok, I miei giorni più belli, e per quanto riguarda l'altra menzione, il film di Vigas, il titolo italiano è Ti guardo, ed è uscito il 21 gennaio, quindi è di quest'anno. Sì. Benissimo, Fabio, io ti abbraccio, ci sentiamo sicuramente nel corso dell'anno, buon 2017. In un 2017 migliore, perché il 2016 è stato devastante su tutti i fronti, non solo su quello cinematografico. Sì. A presto. Un grande abbraccio. Ciao Fabio, ciao. Fabio Ferzetti, e dovremmo avere un ultimo ospite per questa prima di due puntate dedicate ai film preferiti del 2016, i cinque film preferiti del 2016 tra quelli usciti in sala. Oh, si chiude in bellezza questa puntata con l'ottavo ospite, che è Giorgio Gosetti. Ben ritrovato, caro. Buongiorno a voi, tanti auguri. Auguri, che ci faremo anche alla fine del collegamento per un nuovo anno 2017 di tante sorprese. Allora, Giorgio, intanto come ti è sembrato questo 2016 cinematograficamente? Guardavo ieri, pensando al nostro collegamento, un po' la lista dei film usciti. È stato un anno, paradossalmente, lo dico io che non sono un'anima cinefila, in cui i film più belli si sono visti dentro i festival e poi non sempre in sala, il che è paradossale perché escono fin troppi film, fin troppo poco messi in luce o valorizzati spesso dalle possibilità della distribuzione, e quindi teoricamente i film arrivano e come, ma paradossalmente i più belli hanno fatto fatica a mettersi in luce. È un po' triste, io in genere scommetto sui film che funzionano fin da subito, non così è stato quest'anno. E hai tirato fuori un cinque titoli? Sì, certo che sì. Allora, cominciamo dalle cose più semplici, perché i film per me in assoluto più importanti e più belli dell'altro sono l'inglese Io Daniel Blake di Ken Loach e l'americano Patterson di Jim Jarmusch. Trovo che siano due film veramente che sì, hanno avuto una distribuzione, ma appunto per questo dicevo non proprio facilissima, non proprio fluida. Tante persone che secondo me li avrebbero amati moltissimo non li hanno proprio potuti vedere o potuto avere nemmeno l'informazione che c'erano. Entrambi stanno al Festival di Cannes di quest'anno, uno ha vinto addirittura la Palma d'Oro, l'altro è stato forse un po' scandalosamente il grande escluso dell'anno, ma sono due film strepitosi, veramente strepitosi, e alla faccia di chi pensa che siano dei film noiosi da tartufolini dello spettacolo così per un po' autocompiacimento narcisistico. Sono due grandi film, uno sulla realtà, l'altro sulla poesia, che meriterebbe davvero che chiunque dei nostri ascoltatori vedesse, secondo bene, me. Bene, bene. E questi sono due. Poi ci sono gli italiani. E per gli italiani uno andrà quasi di default, anche se io non credo sia proprio in assoluto il film più importante di Gianfranco Rosi. Certamente però Fuoco a mare è un film che segna per tanti versi l'anno, lo continuerà a segnare, è una grande intuizione di regia e di impegno civile, è un grande film per tanti versi, è una grande rivincita per il cinema documentario, e quindi mi fa piacere di accompagnarlo verso l'Oscar anche con il mio voto. E l'altro è per me, diciamo così, il film rivelazione dell'ultima mostra di Venezia, Indivisibili. Lo so che gioco un po' in casa perché stava nella sezione veneziana di cui mi occupo io, però credo veramente che sia un film molto personale, molto incisivo, molto forte e bello. Da tantissimi punti di vista, ed è perfino bello che sia stata una distribuzione pesante come Medusa aver rischiato su un autore così. Lo stile è molto interessante, poi. Sì, decisamente sì. Poi, poi mi riesce difficile non menzionare il film di Paolo Virzì, La pazza gioia, perché è la ulteriore conferma di un regista veramente ormai completo, maturo, bello, appassionante e in quel caso anche capace di conquistarsi un pubblico. E quindi siamo già a 5. Poi dovrei dire che l'opera prima più bella dell'anno secondo me è La ragazza del mondo. Poi dovrei dire che Perfetti sconosciuti è stato un film molto sorprendente per tantissimi versi. Poi dovrei dire che ci sono i film come Miss Peregrine di Tim Burton che a mio parere sono abbastanza straordinari, ma 5 era la regola e 5 ore prova. Beh, li possiamo inserire come menzioni, certo. Sì. Se potessi citarne altri 3, ecco, questi sono i film di Tim Burton. Secondo me poi è la più bella sorpresa della restituzione di un autore alla sua vena più personale e più forte. Bene, bene. Allora, Patterson, con il tuo voto è in questa prima parte delle votazioni, perché ci sarà la puntata anche del 5 gennaio con altrettanti ospiti. Oggi eravate in 8, Patterson ha avuto 5 voti, quindi è primissimo. Sono molto contento. Sì. Ecco, il problema è che guardavo ancora le classifiche adesso, cioè a pochissime sale, cioè proprio una specie di scoperta, ed è buffo perché l'ho visto in sala, o meglio, l'ho rivisto in sala recentemente, e all'uscita del cinema sono, non moltissimi spettatori, sono tutti un po' scossi, dicono vabbè, però un po' palloso, però così. Poi li rincontri mezz'ora dopo a mangiare una pizza e stanno parlando del film, ne senti qualcuno il giorno dopo e ti dice ma sai che mi è proprio rimasto dentro. È un film da consumo lento, non c'è dubbio, però credetemi, vale la pena, lo dico per chi potesse recuperarlo in questi giorni, vale proprio la pena. Bene. Ok, io mi sto rendendo conto, ancora non ho stilato quella definitiva, però ho 7 titoli da cui tirare fuori questi 5, ed è quasi tutta statunitense. Ne parlavo prima con Nicola Falcinella, che ha avuto anche lui, si è ritrovato a parlare e a scegliere tra tutte le pellicole statunitensi. Te li dico così, guarda, sì. En passant, e si tratta della grande scommessa, dell'ultima parola, la vera storia di Dalton Trump, e il caso Spotlight, Truth, il prezzo della verità, Laurence Anyways, Demolition, amare e vivere, e Captain Fantastic, che è ancora in sala, che è uscito oddio, da poco. Tanti film che erano alla festa del cinema a Roma, alcuni film che erano a Venezia, alcuni film che si sono fatti veramente largo. Sai, il problema col cinema statunitense è che arriva in sala già con una storia costruita, cioè sì, tutti sanno già di cosa stiamo andando a parlare. Sì, è vero. Questo non sempre riesce ai film italiani e non sempre riesce ai film non statunitensi. Senti, per il documentario che in generale, a parte Fuoco a Mare che hai citato, il documentario italiano intendo, come trovi la situazione? Ma io continuo a trovare che è un genere in cui gli italiani in questo momento sanno fare le cose forse più sorprendenti, non dico sempre le più belle, ma le più sorprendenti che si vedono in giro. Ci sono tentativi in direzioni proprio diversissime, e spesso ormai sono veramente al confine fra il documentario in senso vero e la finzione o la semifinzione, tant'è che molti dei registi di documentario sono passati poi al cosiddetto lungometraggio anche di invenzione o di creazione. È una bella storia quella del documentario italiano degli anni 2000 inoltrati. Si tratta anche lì forse di creargli proprio degli spazi di appuntamento fisso, per cui la gente sappia che può andare a scoprire quel tipo di prodotto lì, e non soltanto poi di affidarsi ai recuperi delle televisioni tematiche. Ci sono i documentari, non c'è dubbio, sono belli, non solo italiani, le devo citare, c'è una casa di distribuzione come I Wonder che si dedica moltissimo alla messa in sala dei documentari e certamente ha portato fuori, ma se devo citare un esempio proprio recentissimo, il film italiano che ha aperto il mese del documentario organizzato dall'associazione dei documentaristi che è Tokit, si chiama Castro ed è un film importante italiano. Sì. Che sta cominciando proprio adesso la sua avventura in sala, in fondo anche un oggetto molto difficile da schedare come Robin Hood di Santoro. La firma di Michele Santoro, meglio con la garanzia di Michele Santoro, è un'operazione importante e interessante, va in pari passo col romanzo di Saviano praticamente. Ce ne sono, lo stesso Liberami che ha avuto un gran successo a Venezia. Sì. Giorgio, io ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nel corso del 2017. Oh, sì. E di nuovo buon anno. E in bocca al lupo a tutti, soprattutto ai registi e ai film di cui parliamo, che se lo meritano tutti. Certo. A presto. Grazie. Un abbraccio, ciao. Giorgio Gosetti, e con lui chiudiamo questa lunga cavalcata di questa Visionari di giovedì 29 dicembre 2016, quasi due ore di trasmissione con 8 ospiti, di cui le scelte scriverò e poi pubblicherò sia sul sito della radio ondarossa.info alla voce Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta.